Replay. Buon pomeriggio e bentrovati a un nuovo appuntamento con Replay, la trasmissione che ripropone le voci e le idee più interessanti registrate per voi da Radio 24 nel corso dei convegni e dei dibattiti svoltisi negli ultimi mesi in Italia. Oggi la trasmissione vi ripropone alcuni estratti dal dibattito di presentazione del libro Il paradosso dell'euro, a firma di Lorenzo Bini Smaghi, unico italiano ai vertici della Banca Centrale Europea. Il dibattito ha avuto luogo a fine ottobre a Milano presso la sala Buzzati del Corriere della Sera. Insieme all'autore erano presenti due altri economisti, il ministro dell'economia Giulio Tremonti e l'ex commissario europeo Mario Monti. Abbiamo scelto di riproporvelo oggi, primo giorno dell'anno, per le prospettive e le previsioni che nel corso di questo dibattito i tre economisti hanno cercato di tracciare per l'Italia e per l'Europa nei prossimi anni, nello scenario della crisi economico-finanziaria in corso. Partiamo dall'intervento di Mario Monti. L'euro compie 10 anni dalla sua prima introduzione. È possibile trarre alcune valutazioni su questi primi anni di vita della nuova moneta e provare a tracciare il suo possibile futuro. Sull'euro possiamo dire che mostra un merito in più, rivela un'analogia genetica e stimola una riflessione più ampia. Mostra un merito in più. Avremmo potuto anche fare a meno di questa gravissima crisi finanziaria, ma visto che c'è stata, è sotto gli occhi di tutti quanto l'euro sia stato stabile nel subirne l'impatto, protettore nei confronti dei paesi che vi appartengono e sempre più punto di riferimento per quei paesi che non avevano mai seriamente considerato di appartenervi. La Svezia e la Danimarca, ma per la prima volta mi è capitato in questi giorni in un seminario al quale partecipavano persone responsabili del Regno Unito di sentire evocare l'ipotesi di qualche riflessione su una possibile appartenenza tra qualche anno della Gran Bretagna all'euro che sarebbero state inimmaginabili qualche settimana fa. L'analogia genetica. Questa crisi finanziaria sta avendo sull'Europa effetti che io vedo molto simili a quelli che le crisi valutarie dei primi anni 90 e ancora della metà degli anni 90 hanno avuto sulla nascita dell'euro. Sarebbe stato francamente inimmaginabile che i governi, ma anche le banche centrali dei nostri stati nazionali, entrassero nell'ordine di idee che la sovranità monetaria di fatto non esisteva più e decidessero di conferirla a una moneta unica, a una banca centrale unica, se non ci fosse stata una ventata continua di crisi valutarie nel 92, nel 93, ancora nel 95, eccetera. Il rischio quando l'Europa è percossa da gravi turbative è che prevalga la forza quasi inerziale della disintegrazione. Ci fu allora, c'è stato in questi giorni, è presto per fare un bilancio definitivo ovviamente, ma a me sembra che la risposta alla crisi, prima ancora la fabbricazione della crisi, siano rivelatrici di una maturità della governance dell'economia di mercato in Europa che non è certamente seconda a quella che caratterizza gli Stati Uniti. La riflessione più ampia è sulla governance dell'economia di mercato. Noi dobbiamo in Europa moltissimo dei nostri strumenti di governo agli Stati Uniti, che li hanno impiantati nella Germania dell'immediato dopoguerra, ha trasposto la Germania questi istituti a livello europeo, col Trattato di Roma prima, col Trattato di Maastricht poi, certamente con il concorso della Francia, dell'Italia e degli altri paesi, e oggi abbiamo in opera un metodo di governance dell'economia di mercato che nel mondo è considerato non inferiore a quello americano e che negli Stati Uniti viene considerato per certi aspetti come un modello. E questa crisi naturalmente ha il suo impatto sull'Europa, l'euro ce ne protegge in parte, ma è stata generata negli Stati Uniti ed è stata generata per cattive risposte di politica economica. Il paradosso dell'euro, Lorenzo lo sintetizza nel fatto che è una moneta forte all'estero e debole in patria, debole nei cuori dei suoi utenti, i cittadini europei. E io credo che questo paradosso valga più in generale per l'Unione Europea, non solo per l'euro. In questi anni chiunque abbia avuto contatti con il resto del mondo ha visto un crescente interesse, per certi aspetti ammirazione, in America, in Asia, nel mondo meno sviluppato, per quello che l'Europa con la sua integrazione sta facendo. Chi è appena fuori dall'Unione Europea e vuole entrare ha naturalmente grande tensione e amore per la cosa di cui vuole entrare a far parte e spera di non esserne tenuto fuori, e poi quando ci si è disamorati. Nel affrontare il tema del paradosso dell'euro, Lorenzo Binismaghi, per la verità, non si limita all'euro, va a quello che anche a me sembra un paradosso più ampio riguardante l'Unione Europea e dice: se si dovesse scegliere una parola chiave per la strategia da seguire nei prossimi anni per ricostruire la fiducia nei confronti dell'assetto istituzionale europeo, sarebbe responsabilità. La mia ultima osservazione, osservo questo, che la minaccia attuale alla globalizzazione, dovuta a questa crisi finanziaria, alle reazioni che questo potrà comportare, è venuta non dal fronte dal quale ce la saremmo aspettati. Io per esempio ero convinto che il backlash contro la globalizzazione, la facciata che la globalizzazione avrebbe preso, lungi dall'essere irreversibile, sarebbe venuto dagli aspetti sociali e politici, cioè dalla insostenibilità delle conseguenze in termini di distribuzione del reddito e della ricchezza che la globalizzazione comporta. Invece, in questa fase è avvenuta una specie di gigantesca implosione, chiamarla tecnica è riduttivo, ma con moltissimi aspetti tecnici, della globalizzazione finanziaria. Ma io credo che sarebbe un errore, mentre si cerca giustamente con una nuova Bretton Woods di avere un governo globale della finanza, credo che sarebbe un gravissimo errore dimenticarsi che la sostenibilità dell'integrazione e della globalizzazione dipenderà moltissimo dal fatto che possa avere conseguenze distributive più accettabili. E quindi, anche se il tema è di enorme difficoltà, credo che nel disegnare un ordine di governo mondiale della globalizzazione, temi come un minimo di coordinamento della fiscalità, per esempio, debbano avere il loro spazio. Ultimissima considerazione, sta uscendo di scena in un disastro che sollecita pietà il presidente degli Stati Uniti George W. Bush, che certo entra nella storia, però salvo una revisione storica imponente in modo drammaticamente negativo. Non posso dimenticare che all'inizio di questo decennio alcuni governi europei erano molto pronti a osannare il presidente Bush col suo decisionismo unilaterale texano rispetto ai faticosi, lenti esercizi di integrazione europea. Non so chi abbia avuto ragione. Questa l'analisi macro dell'introduzione dell'euro da parte dell'ex commissario europeo Mario Monti. Ma qual è invece l'effetto della nuova moneta europea sulla vita dei cittadini? Ci sarebbero comunque stati la lievitazione dei prezzi e il calo del potere d'acquisto delle classi medie, vero o percepito che sia? Insomma, l'euro è stato davvero una cosa buona per gli italiani? Risponde ancora Mario Monti e a seguire Giulio Tremonti. Io sono sempre stato convinto, ma certamente mi sbagliavo, che l'Italia fosse straordinariamente fortunata, perché toccandole in sorte un cambio di 1936, mai e poi mai avevo pensato che fossimo così sprovveduti da approssimare il 1936 a 1000 anziché a 2000. Quindi pensavo che avevamo avuto in sorte un calcoletto abbastanza facile, certo 1-1 sarebbe stato più facile, ma 1-2 non è terribilmente complicato, con un leggero bias deflazionistico, perché 1936 è meno di 2000, quindi avremmo sopravvalutato un po' i prezzi e quindi saremmo stati più cauti nei nostri comportamenti. Ma non mi considero, come si vede anche da questa semplice risposta che ho dato, uno specialista dell'impatto inflazionistico dell'euro. Rimango convinto, questa volta come economista, che se si paragona l'inflazione italiana e si esamina l'effetto euro, bisogna certamente tenere conto dell'impatto iniziale che ha avuto, e probabilmente sono fondate certe critiche su misure che si sarebbe potuto prendere e non sono state prese in sede di conversione. Ma passando all'euro abbiamo disinnescato i meccanismi italiani endogeni di fabbricazione dell'inflazione. Penso che oggi senza l'euro avremmo un'inflazione multipla per un fattore rilevante di quella che abbiamo. Io ho sempre avuto, come dire, da fare critiche non tanto sull'euro in sé, quanto sulle modalità, sulla tempistica. Troppo presto ho sempre sostenuto, ho pensato che le cose materiali, quelle rasoterra, quelle per la piccola gente, fossero importanti almeno quanto le cose più generali e più fondamentali. La doppia circolazione fu scartata con una logica più politica che tecnica. Fare l'euro per fare l'Europa non fu neanche presa in considerazione. Eppure nella storia delle monete qualche episodio non negativo di doppia circolazione c'è stato. Un'altra cosa che io consideravo assolutamente negativa era quella della non banconota da un euro. L'idea che il dollaro ha la banconota da un dollaro mentre l'euro ha la moneta, forse non è un'idea monetarista o sofisticata, ma mi sembra che in tante cose anche quello che conta a livello rasoterra di vita comune della gente sia importante. Quella cifra, quel segno avrebbe marcato dal nostro lato una continuità positiva con la lira. Non ci sarebbe stato il salto, secondo me, da un euro a 2000. Con la banconota avremmo avuto forse un marcatore più dentro la vita della gente. Questa è la mia impressione. E poi, per inciso, sarebbe stato anche un segno di forza verso l'esterno. Nel mondo la banconota da un dollaro viene usata per le piccole transazioni, la moneta da un euro non viene usata nelle piccole transazioni. La proiezione commerciale, quindi politica, di una moneta non dipende solo dalla sua capacità a segnare i grandi bilanci degli stati, a marcare i grandi contratti, ma anche rasoterra. Perché alla fine, dal mio punto di vista, l'avventura è stata positiva, e quali sono le forze che io pensavo fossero in campo e che si sono chiuse in un bilancio che possiamo fare positivo e non negativo? E io l'ho sempre vista in questi termini: da tutto viene fuori come input. La Germania con l'euro ha fatto l'unificazione, la Francia con l'euro ha fatto l'agricoltura e la legislazione, o comunque allora una presunta capacità di dominio sul potere a Bruxelles, e l'Italia ha avuto il consolidamento del debito pubblico. Lo ha messo in un qualche modo in sicurezza, e questa è non ultima la ragione per cui io credo che sia fondamentale per noi, nell'interesse nazionale, mantenere, per come è stato costruito, il patto di stabilità e di crescita. Il changeover ha avuto dei costi, non solo causati da quel grande spostamento di ricchezza da un ceto sociale all'altro che è avvenuto, non credo in dipendenza dell'assenza di controlli, ma per il fatto che la nostra struttura commerciale, la nostra geografia sono fatte in modo tale che quello fosse fatale e inevitabile. Sicuramente abbiamo avuto uno shock passando di colpo dalla svalutazione del cambio alla supervalutazione, e sicuramente per le famiglie siamo di colpo passati da alti tassi di interesse che remuneravano una quota non marginale della domanda a bassi tassi di interesse. Il bilancio alla fine è positivo. Come la vedo io? Faccio, come dire, cinque veloci riflessioni. Primo, quello che è avvenuto in altri paesi, non in Italia, forse perché era già avvenuto prima con il debito pubblico, è un eccesso di debito privato. Una quota enorme del tenore di vita in altri paesi, dello sviluppo del PIL di altri paesi, è stato fatto a debito. Non come da noi negli anni 70-80 col debito pubblico, e tutte le operazioni che si stanno facendo in Occidente, in America e in Europa sono alla fine un colossale swap dal debito privato al debito pubblico. Ma dietro questi 20 anni, 10 anni di sviluppo differenziato, per cui il resto dell'Europa cresceva tanto e l'Italia cresceva di meno, credo che il contributo a quel livello di PIL, a quella dinamica di PIL, l'abbia dato in tanti altri paesi il debito privato. E quindi vediamo un po' come sarà alla fine con la riduzione del debito, della meccanica di ricchezza creata a debito, con lo spostamento del debito dal privato al pubblico, con il ritorno, non tanto solo dell'agricoltura, sulla quale peraltro noi andiamo benissimo, ma anche della manifattura, io credo che le sorti del nostro paese alla fine della crisi saranno o potranno essere significativamente ricalcolate nel ranking dei paesi. Un altro punto, quello che notavo nelle discussioni è dentro il meccanismo unitario il ritorno di aree economiche o sociali che pensavamo o che pensavo io in un qualche modo superate o non esistenti. Io ho visto operare e ragionare insieme tutta l'area nordica o la cosiddetta dimensione baltica, superando i confini nazionali. La Finlandia che sta dentro l'euro con altri paesi che stanno fuori, ma ragionare in una logica comune, di dimensione comune. La gestione della crisi che ha avuto epicentro in Islanda, sviluppi a Londra e un impatto molto forte in quei paesi è stata unitaria. Un'altra cosa che mi ha fatto un certo effetto è ritornato il Benelux. Il Benelux è ritornato come meccanismo di decisione sugli interventi, sulle banche comune. L'abitudine era vedere il ministro del Belgio, del Lussemburgo, dell'Olanda, questa volta tutti insieme come Benelux. E anche questa è una cosa che ha un qualche interesse. Un'altra riflessione, è forse arrivato il momento di un disarmo culturale reciproco, cioè dire, capire che le soluzioni non sono dogmatiche, quelle giuste, quelle utili, non sono quelle dogmatiche ma quelle empiriche, che caso per caso si può decidere quello che è giusto o quello che non è giusto, senza opporre nella discussione delle pregiudiziali di carattere negativo a priori, del tipo i fondi sovrani vanno benissimo, ma cosa c'entrano col mercato? Entrano nel mercato, ma forse non sono soggetti al mercato, eppure sono magari utilissimi. Oppure i cartelli sono una cosa che c'è in natura, però che differenza c'è tra un cartello sovrano e altre entità che sono l'opposto del mercato? Per finire, io credo che il punto essenziale sia questo: quello che stiamo vivendo è uno degli effetti della globalizzazione. La causa di tutto quello che sta venendo fuori è non nella globalizzazione in sé, ma nei tempi troppo brevi e nei modi tutta a debito della globalizzazione. Questa è. Io vedo, leggo documenti anche politici di alto livello, recenti, molto importanti, ma vedono una parte e non vedono il tutto. C'è un documento di straordinario rilievo elaborato da un importante governo europeo che però identifica il principio e la fine della crisi con la finanza. La finanza è uno degli aspetti, forse è l'epicentro, forse è l'epifenomeno, forse è la forza che negativamente ora più fortemente si è espressa come vettore, ma i problemi, la cascata dei fenomeni non è solo nella finanza, ma in molto più vasti squilibri di forze che vanno dalle materie prime al lavoro, ai cambi. E qui arriviamo alla discussione finale su Bretton Woods, che è un po' la prospettiva. Bretton Woods è un trattato che ha una caratteristica politica non marginale, è come dire poco multilaterale, è fortemente unilaterale. Bretton Woods è la versione mercantile o finanziaria di un trattato di pace. Accomodatevi, firmate e vi liberiamo. Quel trattato genera due organi, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. Da allora è passata una quantità impressionante a un'altissima velocità di tempo. Quello che abbiamo è un organo politico in più, il G8, i due organi sotto un po' meno efficienti di come erano stati pensati, e tuttavia esistenti ed efficienti, ma meno di come avrebbero dovuto potuto essere. Quello che è venuto a mancare nel mezzo è il trattato, e cioè dire è venuto a mancare un equivalente di trattato come è stata Bretton Woods. La storia non si ripete per identità perfette, gli equilibri del mondo sono radicalmente cambiati. Non è neanche immaginabile che l'attuale G8 replichi la forza che aveva allora l'America, perché è comunque, pur contenendo l'America, meno forte di quanto era l'America nel 94. Va trovato un assetto diverso, ma va messo in mezzo comunque un trattato. Dunque, tutto sommato, l'euro non è poi stato un così cattivo affare, secondo Monti e Tremonti. Ma nel dibattito interviene anche Cesare Romiti, presidente onorario di RCS Media Group. Non basta che gli addetti ai lavori siano convinti della bontà dell'euro, è invece necessario che la popolazione abbia fiducia nella propria moneta, ma così non sembra. Malgrado Giulio Tremonti abbia difeso e abbia detto non è che abbiamo fatto poi degli errori grossi quando l'euro è entrato, oggi però non dire che stiamo a rimangare quello che è stato fatto allora, ormai è stato fatto e non ci si può tornare indietro. Quello che è, come in questo momento bisogna tener conto è che la popolazione, parlo di quella italiana ma anche di tutta l'Europa, è scettica nei confronti dell'euro, non ha fiducia nella moneta come invece sarebbe necessario, non ha fiducia perché raffigura l'euro come uno strumento che ha moltiplicato, che ha raddoppiato, che ha aumentato i prezzi dei prodotti con cui la popolazione vive. Ha ragione Giulio Tremonti quando dice che spesse volte le classi politiche, i banchieri, pensano alle espressioni più vaste e non pensano invece che poi l'opinione di un paese, di un popolo, è fatto dalla migliaia, dai milioni di persone che ogni giorno si trovano a che fare con la realtà quotidiana. E bisogna tornare evidentemente a pensare questo, in che maniera si può far riguadagnare all'euro quella fiducia che oggi la gente, la popolazione minuta non ce l'ha più. Non basta che la classe dirigente di un paese o dell'intera Europa convenga sulla opportunità, come giustamente sarò detto oggi e come io sono d'accordo che questo ha portato grandi benefici. Bisogna che ne sia convinta la massa della gente. Io non sento questa domanda farsela né dai politici né dagli economisti né dai banchieri. La seconda considerazione che volevo fare è che certamente ci troviamo di fronte a un momento particolarmente delicato, quindi non solo non è finita la crisi, ma ci stiamo ancora dentro, poi la misura, la maniera, eccetera. Il punto fondamentale per me oggi è quello che il mondo riacquisti la fiducia. Quello che oggi manca è la fiducia. E conquistare la fiducia non è facile, è anche doloroso e comporta decisioni anche dolorose. Non mi pare che finora ci si avvii su questa strada. Lasciamo a Mario Monti il compito di chiudere questo replay. Una buona moneta, buone e solide istituzioni a garanzia dei cittadini e del loro benessere, economisti attenti a prevedere gli sviluppi futuri, sono gli elementi positivi su cui gli italiani possono contare. Ma a che punto siamo della crisi? Siamo ancora in mezzo al guado? E quando finirà questa situazione di incertezza? A che punto siamo della crisi, nella convinzione che nessuno al mondo lo sappia, è un quesito che accolgo volentieri. Credo che sia un po' superato il primo impatto sulle menti della crisi, nel senso che ci stiamo abituando all'idea che la crisi in qualche modo può essere gestita e qui l'intervento per di più coordinato dei pubblici poteri ha avuto un ruolo importante. Non credo che sia terminata per nulla la crisi nella finanza, ma per questo primo aspetto di mentalità forse il prosieguo della crisi finanziaria avrà effetti meno devastanti di quelli che ha avuto nelle prime settimane e mesi. E il tema rilevante sarà la trasmissione di tutto questo all'economia reale. Ma credo che la difficoltà politica dei prossimi tempi in tutti i paesi, quantomeno europei, sia la difficoltà di non gettare il bambino delle riforme strutturali con l'acqua calda e un po' sporca dell'eccesso di finanza e del mercato senza regole. Credo che sia molto importante per i paesi, soprattutto per i grandi paesi dell'Europa continentale, di cui noi siamo uno, essere contemporaneamente consapevoli, come ci ha detto all'inizio il ministro Tremonti, che abbiamo dei punti strutturali di forza che venivano un po' derisi e visti come debolezza, invece li abbiamo e possono tornare ad essere forza. Ma credo che sarebbe molto negativo se sentissimo adesso una minore urgenza delle riforme strutturali, perché le abbiamo associate a prediche spesso antipatiche di stampo anglosassone. È tutto per questo replay dedicato alla presentazione del libro Il paradosso dell'euro di Lorenzo Binismaghi. Il dibattito, di cui abbiamo ascoltato alcuni passaggi, ha visto la partecipazione del ministro dell'economia Giulio Tremonti e dell'ex commissario UE Mario Monti, oltre al presidente onorario di RCS Media Group Cesare Romiti. Buona serata.